Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Lo diceva Paolo Borsellino, il magistrato palermitano assassinato dalla mafia nel 92, e questa è una frase che sintetizza tutta la filosofia di gente come Borsellino, come Falcone e di tanti altri che combattono quotidianamente contro qualsiasi forma di mafia, che usa la paura proprio come strumento di controllo. Insomma, questa frase è anche la sintesi della vita terribile, travagliata, difficile, sofferta della nostra protagonista di oggi, una donna che ha avuto il coraggio di dire di no, una donna che ha saputo ribellarsi alla cultura della paura, della violenza, della malavita, una donna che è stata capace di rifiutare un mondo nel quale lei stessa era nata e cresciuta, un mondo che le aveva insegnato fin da bambina a lavare il sangue con il sangue. Ed è una scelta che le è costata tanto, le è costata la vita, però la sua è una morte che non è stata inutile. Oggi raccontiamo la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa a Milano nel 2009 per mano del suo compagno e padre di sua figlia Denise. L'assassino si chiama Carlo Cosco ed è morta per mano della famiglia di lui, Cosco appunto, una famiglia molto potente affiliata dell''ndrangheta calabrese. È una vicenda che è intrisa di sangue, di orrore, una vicenda con risvolti raccapriccianti, soprattutto perché non si tratta di un fatto lontano nel tempo, ma si tratta di storie recentissime. Il finale di questa storia è addirittura documentato dalle telecamere di sorveglianza che mostrano gli ultimi istanti di vita della donna che immortalano l'assassino. Sono immagini che rimandano a una Milano contemporanea che noi viviamo ogni giorno, con luoghi nei quali noi andiamo a passeggio, vediamo i monumenti, andiamo a fare la spesa. L'Arco della Pace, per esempio, che è un luogo in cui c'è stato questo delitto efferato, un delitto che si è consumato mentre noi stavamo vivendo le nostre normali vite. Invece di normale nella vita di Lea Garofalo non c'è mai stato niente, e forse fin dall'inizio della sua esistenza è stato così, e sarà proprio per quello che lei si è ribellata e a un certo punto ha deciso che lei con quel mondo non aveva nulla a che spartire. Io sono Lea Garofalo, sono soltanto Lea Garofalo, hai capito? Io non sono di nessuna famiglia, di nessun marito, lo capisci questo? Questa è una scena tratta dal film Lea di Marco Tullio Giordano, un film del 2015 che ricostruisce la drammatica vicenda di Lea Garofalo. E nel film c'è questo importante passaggio quando la donna inizia a raccontare alle forze dell'ordine la terribile verità sulla famiglia del compagno, in cui lei ribadisce con forza la sua estraneità a quel mondo corrotto e a quella mentalità mafiosa. È un passaggio chiave della scelta coraggiosa di Lea Garofalo, è lo spartiacque di una vita destinata a spezzarsi, ma anche a diventare il simbolo, un simbolo di non rassegnazione, un esempio, una speranza per molti giovani. Lei, la femmina ribelle, con la sua scelta di libertà riesce a sconfiggere un intero clan dell''ndrangheta. Lea Garofalo è originaria di Petilia Policastro, un piccolo comune in provincia di Crotone, in Calabria. Lei nasce il 24 aprile del 74. E la sua è una famiglia malavitosa. Il padre è stato ammazzato quando lei aveva 9 mesi. È proprio la nonna che le insegna la dura legge dell''ndrangheta, che le dice: Lea, il sangue si lava col sangue. Intanto il fratello Floriano è cresciuto, è un boss a Petilia Policastro e muove dalla Calabria i fili dello spaccio del traffico di cocaina a Milano. È il contabile di un'andrina che è una famiglia, ed è una famiglia potente. Il suo quartier generale milanese è in Viale Montello 6, c'è un intero caseggiato popolare occupato abusivamente da extracomunitari, delinquenti comuni, ma soprattutto dai membri delle famiglie calabresi che vivono con la droga. E intanto a Petilia Lea conosce Carlo Cosco, che fa parte del giro del fratello, ovviamente anche lui è di una famiglia tutta dedita esclusivamente a delinquere. Carlo ha 17 anni, Lea è una bambina ed ha solo 13 anni, ma lì si usa così e tra di loro è già un colpo di fulmine che viene contrastato dal fratello perché non vuole che sua sorella abbia a che fare con quella gente, perché lo sa che sono persone pericolose o comunque fanno parte di un altro clan. Ma porca miseria, ma che è rotto sto coso! Oh, ma sei brava, eh? Brava, dammi 100 lire. Io te le do 100 lire, però poi ti fai vedere in macchina con me. Dove mi porti? Beh, allora, che te le porti sempre qua le femmine? Sto cascettone macchina. Oh, la macchina nuova. Sì, nuova, 20 anni fa, nuova. Non so se sei più bello o più matto. Mm. Con me devi fare sul serio. Hai capito? Ma che fai? Lascialo stare! Pezzo in me! Lascialo stare! Pezzo in me! Guarda che ci voglio bene, non la voglio sposare. Ma la madre di cugina che ti stacchi i canti. Ha capito? Vatti! Vai! Vai! Oh, ma chi vuoi? Ma chi vuoi? Ma chi vuoi? Ma con questo ti vuoi pigliare tu? Ma fatte cazzi tu! Oh! Parla con rispetto a tuo fratello. Io te scanno a te. E diciamo dei bei dialoghi di famiglia, tranquilli, edificanti. E comunque lei non presta attenzione a quello che dice il fratello, perché lei è innamorata. Quando lui va a Milano a seguire gli affari della famiglia, lei, Lea, fa quello che hanno fatto la madre, la nonna e moltissime altre donne, soprattutto al sud: la fuitina, cioè scappa di casa, raggiunge Carlo a Milano e va a stare con lui proprio in quel viale Montello al numero 6 dove il giovane è stato mandato a seguire i traffici illegali della loro cosca. Insomma, praticamente mette la sua famiglia di fronte al fatto compiuto. Ufficialmente Carlo fa il buttafuori in una discoteca, lei ormai ha abbandonato Petilia Policastro, non si può tornare indietro, si sposeranno e intanto lei si immagina un mondo nuovo a Milano, un mondo senza strade imbrattate di sangue, spera in un'esistenza normale come quella di tutti gli altri e ovviamente il finale sarà diverso e lei dovrà ricredersi. Il falco e il gabbiano. Lo scenario è questo: una ragazzina di poco più di 14 anni, che è sempre stata Petilia Policastro, arriva a Milano verso la fine degli anni 80. È stata portata dall'uomo che ama, che all'inizio la tratta bene, le fa un sacco di regali e i soldi girano. Però a un certo punto, siccome questa ragazza che si chiama Lea Garofalo comincia a aprire gli occhi e non è stupida, capisce che nella casa di ringhiera di Viale Montello 6 in cui vive passano quantitativi di droga, soprattutto cocaina, e vede le altre donne calabresi che la tagliano, la dividono in bustine, in dosi singole, poi la vendono, fanno tutti parte di questo gruppo che ruota attorno ai padrini di questa associazione, per esempio il boss Coco Trovato, che è capo di una famiglia molto potente. Insomma, la sostanza è la stessa, lo scenario è cambiato. E in più, a 17 anni, questa ragazza, che non sa dove andare, non ha la minima traccia di istruzione nel suo DNA, non ha neanche un lavoro e scopre di essere incinta. E nel 91 nasce Denise. Lea sta maturando un senso di ribellione che le arriva proprio con la maternità, perché forse su di sé avrebbe anche potuto chiudere un occhio, ma per sua figlia no. Lei vuole una vita diversa per questa ragazza, una vita magari fatta di tenerezza, di affetto, magari di legalità, e non vuole che la figlia conosca la paura. Quindi ci sono i primi dissapori con il marito, con Carlo, e lei cerca di farli cambiare vita, cosa di per sé strutturalmente impossibile. E quindi arrivano le botte, arriva l'emarginazione, arriva la violenza fisica ma anche psicologica, perché la famiglia non la si può criticare, contrastare e ovviamente men che meno abbandonare. Poi arriva l'occasione propizia, perché nell'aprile del 96 Carlo Cosco viene arrestato. C'è un'operazione che si chiama Storia Infinita, 400 carabinieri che arrivano, in Viale Montello 6 e fermano ben 16 persone dell'andrina milanese, cioè tutte calabresi, tutte della zona, insomma. Un primo duro colpo a questo clan, che verrà smantellato solo anni dopo, come racconta il giornalista Biagio Simonetta. Viale Montello 6 a Milano non è semplicemente un indirizzo, non è un palazzo come gli altri macchiato dallo smog e dal tempo in questo stradone del centro che confina con la più famigerata via Paolo Sarpi, la Chinatown meneghina. No, Viale Montello 6 è molto di più. È un luogo simbolo dell'illegalità, quasi un monumento del brutto, dell'osco, del malaffare che pervade la normalità di una metropoli, mimetizzandosi. Per 40 anni le organizzazioni criminali hanno fatto di questo stabile del centro un autentico fortino, spaccio, prostituzione, emigrazione clandestina. Un mondo parallelo dove il confine fra legale e illegale non esiste, non è mai esistito, un posto inespugnabile, circa 200 persone, per lo più cinesi ed eritrei, inquilini spesso inconsapevoli di una famiglia calabrese, la famiglia Cosco, di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, che secondo la procura di Milano da anni gestiva ogni movimento all'interno del palazzo. Carlo Cosco è in prigione, lei capisce che è l'occasione giusta, lo va a trovare e gli comunica che vuole lasciarlo, non lo vuole più né per lui né per sua figlia Denise. Carlo ha una reazione violentissima, tenta di ammazzarla, devono intervenire gli agenti carcerari per togliergli Lea dalle mani. Lei prende sua figlia e scappa, si rifugia a Bergamo, riesce a trovare un lavoro. E l'estate successiva, quando lei e sua figlia vanno in Calabria a trovare la nonna, primo di tanti errori, Denise viene portata dagli zii a trovare il padre, che nel frattempo è stato trasferito in un carcere calabrese vicino a casa. E lei lì capisce di avere tutti contro, capisce di avere sbagliato andare in Calabria. Ribellarsi alla famiglia non è una cosa che si può fare. E le dà addosso anche il fratello. Una donna deve saper stare al suo posto, deve tornare col marito. Lei non ci sta, va a Bergamo e iniziano le intimidazioni. Una volta le bruciano la macchina, poi uno dei fratelli di Carlo l'aggredisce, lei si nasconde, cambia casa, cambia lavoro e poi torna ancora in Calabria perché questo cordone ombelicale non riesce a reciderlo completamente. E allora le bruciano un'altra macchina e le violenze sono sistematiche, lei non dorme la notte ma non molla. E arriviamo a luglio del 2002, Lea è esasperata, non ce la fa più all'ennesima aggressione, prende una decisione coraggiosa, va alla caserma dei carabinieri di Petilia Policastro. E ci va con la figlia, con Denise, passa in caserma tutta la notte, tutto il giorno successivo, è un fiume in piena, racconta tutti i particolari, racconta l'uccisione del padre e dello zio, racconta dei traffici loschi del condominio di Viale Montello, racconta di Carlo, dei suoi fratelli che mettevano la droga nelle bustine lì in casa e diventa una testimone di giustizia e come tale entra assieme a Denise in un programma di protezione. Sotto falso nome la nascondono prima a Tropea, poi a Ascoli Piceno, poi a Fabriano, a Udine, a Firenze e poi a Campobasso. Sono anni di continui spostamenti, di terrore, di ansia. Intanto il 7 giugno del 2005 il fratello di Lea, Floriano, viene ucciso, insomma si usa così lì, e Lea, interrogata dal pubblico ministero antimafia Salvatore Dolce, riferisce quello che le hanno raccontato i suoi. L'ha ucciso mio cognato, Giuseppe Cosco, detto Ulupu, quello che a Milano lo chiamano Smith per via della pistola. L'ha ucciso lui e mio fratello, nel cortile nostro. Dopo la morte di Floriano, i magistrati ritengono prima che Lea e Denise sono fuori pericolo e stranamente le escludono dal programma di protezione, poi le rincludono quando Carlo Cosco viene scarcerato e poi c'è tutta questa vita di fughe, di paura. Intanto la ragazza si è iscritta al liceo a Campobasso, ci sta bene lì e lei prende una decisione, chiama la sorella Marisa e le dice di mettersi in contatto con Carlo, secondo errore. Vuole parlargli, vuole chiedergli di non fare del male né a lei né a Denise per amore della figlia. Questo decreta l'uscita di Lea e della figlia dal programma di protezione. Carlo accetta di aiutarle, lei Denise vuole vivere a Campobasso, lui affitta un appartamento a spese sue per entrambe le donne. Poi c'è una lavatrice che non funziona e Carlo la tranquillizza: ti mando io un amico mio, è un idraulico, 5 maggio 2009, e arriva un tecnico per riparare il guasto, non è un idraulico, si chiama Massimo Sabatino, è stato incaricato di rapire Lea. Sotto casa c'è un furgone con dentro un bidone e dentro al bidone ci sono 50 litri di acido, quello che serve per sciogliere i corpi dei nemici. Qualcosa va storto, lei si difende, urla, sveglia Denise. Insomma, Sabatino, che aveva l'ordine di non toccare la ragazza, desiste e fugge. Il tentativo questa volta fallisce, ma qualcosa di ancora più terribile attende Lea Garofalo di lì a pochi mesi. Il falco e il gabbiano. Vi stiamo raccontando una storia intrisa di orrore, è la storia di Lea Garofalo, una donna forte, coraggiosa, che si ribella alla cultura malavitosa nella quale è nata e cresciuta in Calabria. Lo fa per i suoi ideali, che non sono quelli dell'andrangheta, lo fa per la figlia Denise, alla quale vuole assicurare un destino diverso dal suo, lascia e denuncia Carlo Cosco, suo compagno e boss malavitoso dedito al traffico di cocaina. Però certe famiglie, certe realtà non si possono lasciare impunemente, così lei subisce attentati intimidatori, riesce a sventare un rapimento che sarebbe sicuramente sfociato nel suo assassinio. La domanda più spontanea è: come mai Lea non sia andata all'estero, non prenda sua figlia per sparire al di là di tutto in un programma di protezione efficace? Probabilmente questo cordone ombelicale lei non riesce a tagliarlo del tutto e questo le sarà fatale. Denise, interrogata dai magistrati, dirà: l'amore è bastardo, parlando del rapporto tra sua madre e suo padre, perché lei a un certo punto torna incredibilmente a fidarsi di Carlo. Quando l'uomo le propone di incontrarlo a Milano per parlare del futuro di Denise, lei gli crede, gli vuole credere. Così il 20 novembre del 2009 Lea Garofalo e Denise prendono un treno da Firenze per Milano. Alla stazione sono con il suo avvocato, con l'avvocato di Lea, si chiama Enza Rando, e lei, l'avvocato, ha capito, cerca in tutti i modi di fermare le due donne. Volevo impedire a Lea di andare a Milano. Avevo perfino tentato di trattenerla fisicamente. Lei mi rassicurava: avvocato, non si preoccupi, finché c'è Denise non mi accadrà nulla. Carlo mi deve dare dei soldi e poi in così poco tempo non riuscirà ad organizzare il mio omicidio. Ma io sapevo che non era così. Ero certa che lui avesse organizzato qualcosa di terribile. L'avvocato si fa promettere da Lea che starà attenta, che prenderà sì i soldi, ma non starà mai sola con Carlo, e poi accetterà nuovamente di mettersi nelle mani di Libera, l'associazione di Don Ciotti, che da tempo si occupa di lei e di Denise. Forse possono aiutarla, perché lei ha un sogno, quello di trasferirsi in Australia. Lei promette, parte, e a Milano a attendere madre e figlia c'è proprio lui, c'è Carlo Cosco. Ha prenotato una bellissima camera in un albergo della zona dell'Arco della Pace, è gentile, dà loro dei soldi, le accompagna a cena, insomma tutto sembra andare per il meglio, sembra addirittura avere messo da parte tutti i suoi rancori. Dice che le cose devono rimanere sul piano di una civile relazione. Insomma, tre giorni bellissimi in giro per Milano, le due donne sono serene e Lea ingenuamente si convince che, come lei è prima di tutto una mamma, Carlo sarà prima di tutto un padre. 24 novembre 2009, ore 18. Le telecamere di sorveglianza di Corso Sempione filmano le due donne che passeggiano. Stanno aspettando Carlo, con il quale hanno un appuntamento. Si vede il SUV di Cosco che arriva, le due donne che salgono, ma dopo un po' Lea scende, il SUV si allontana. Denise ci racconterà perché. Mio padre mi propose di andare a salutare gli zii e i miei cugini in Viale Montello. Allora mia madre, dopo aver ascoltato la proposta e dopo che io avevo detto che andava bene, scese dalla macchina. È scattata la trappola. Denise, lo scudo, la salvezza di Lea viene allontanata con una scusa, cioè andare a salutare il resto della famiglia. Lea rimane all'Arco della Pace, è sola, sempre ripresa dalle telecamere. Denise invece viene portata dal padre e dallo zio Giuseppe nel solito condominio in viale Montello. E poi Carlo Cosco ritorna 18:37. Il SUV nero si ferma, lei si accosta, sale e sparisce per sempre alle 18:39. L'ultimo istante dell'esistenza di Lea Garofalo che viene registrato. Denise intanto è a casa con gli zii e i cugini, alle 20 telefona alla madre e vuole parlarle e non la trova e il cellulare è staccato. Allora lei si preoccupa, chiama la zia Marisa, la sorella di Lea, che le dice l'hanno fatta sparire. Carlo Cosco torna a prendere la figlia come se nulla fosse in viale Montello. Lei ha cenato con gli zii e lui dice ti riaccompagno da tua madre all'Arco della Pace, appuntamento alle 22 per poi andare alla stazione centrale dove le due donne devono prendere il treno delle 23. Lei si tranquillizza, il padre le sembra normale, tutto a posto, però all'Arco della Pace Lea non c'è. Due la cercano e poi si spostano in stazione, magari si sono capiti male. Lea non è nemmeno alla stazione. Denise disperata e il padre le dice guarda che tua madre sicuramente se n'è andata, non voleva andare in Australia, sarà partita da sola. Ovviamente Denise non crede neanche a questa infame menzogna, la madre non l'avrebbe mai lasciata, va dai carabinieri a fare la denuncia, Lea Garofalo è sparita. Denise, rimasta sola, non sa dove andare e torna ancora a Petilia Policastro dalla zia Marisa a 18 anni. È spaventata e disperata, le manca sua madre, sa che le è capitato qualcosa di orribile, non mangia, diventa magrissima, rischia di ammalarsi. È in questo periodo che conosce un ragazzo, si chiama Carmine Venturino, lui si innamora di lei e anche lei sente qualcosa per questo giovane, qualcosa che possa strapparla da una vita disperata. Insomma, i due si innamorano e confida al ragazzo che è convinta che sia stato suo padre a uccidere e a fare sparire la madre. Gli dice anche che vuole denunciarlo. E intanto le indagini vanno avanti, vengono visionate le registrazioni delle telecamere di Corso Sempione. È evidente che Carlo Cosco c'entra e come. E nell'ottobre del 2010 vengono eseguiti diversi arresti. Carlo Cosco, i fratelli Giuseppe e Vito, e poi Massimo Sabatino, il finto idraulico, e poi Rosario Curcio, un altro uomo di Carlo. Ma a sorpresa viene arrestato anche Carmine Venturino, il fidanzatino di Denise. Lei se lo domanda quando è in aula dove ha deciso di testimoniare contro il padre. Il processo però ha uno stop perché il presidente della corte, Filippo Grisolia, è stato nominato capo del gabinetto del nuovo ministro della giustizia Paola Severino e così la difesa degli imputati, avendone facoltà, chiede che l'intero dibattimento sia annullato e si ricominci dal principio. Si chiamano eccezioni procedurali. È un cavillo che porterebbe alla scarcerazione dei presunti colpevoli in attesa di giudizio. Ascoltate la sorella di Lea Garofalo, Marisa, intervistata da Michele Santoro a Servizio Pubblico. Siamo al 24 novembre 2011. Cioè, questa è l'ennesima tragedia, diciamo, per noi, perché stiamo rivivendo praticamente tutto quello che abbiamo già vissuto 2 anni fa. Questo processo deve farsi, deve continuare e deve completarsi entro luglio, perché non deve essere data la possibilità ai presunti assassini di essere messi in libertà per scadenza termini. Quindi quello che io oggi chiedo qua alla magistratura italiana, alle istituzioni, che venga fatto luce su questo fatto, venga continuato questo processo, perché è stata fatta buona parte di lavoro già, perché è iniziato a luglio, quindi questo processo deve continuare e deve terminarsi. Non è giusto che venga azzerato solo perché il presidente che ha presieduto finora questo processo è stato chiamato per un altro incarico. Beh, mi sembra il minimo, cioè, non so, in Inghilterra riderebbero di noi per una roba del genere, forse ridono già. Comunque le cose vanno per il verso giusto, il processo prosegue il 30 marzo 2012, quando secondo la difesa Lea Garofalo è sempre scappata in Australia. Grazie anche alle dichiarazioni di Denise il dibattimento si conclude, 6 ergastoli. Con la sentenza di primo grado vengono riconosciute tutte le accuse di sequestro di persona, omicidio e distruzione di cadavere. Non ci sono prove perché il corpo non c'è, non è mai stato trovato, sicuramente è stato sciolto nell'acido. Naturalmente gli avvocati della difesa ricorrono in appello, ma a questo punto che Carmine Venturino, il fidanzato di Denise, decide di fare alcune dichiarazioni. È un colpo di scena incredibile, sono dichiarazioni che fanno tremare e non lasciano dubbi. La bastarda se n'era adunata, che vuol dire? La bastarda se n'era accorta. Loro sono una potente famiglia di 'ndrangheta. Carlo Cosco soprattutto è un uomo molto pericoloso, molto influente e ha molta amicizia. Diciamo che Carlo Cosco non è che lo decide lui di uccidere Lea Garofalo, questo è un delitto imposto dall''ndrangheta. Carlo Cosco praticamente ha il benestare delle famiglie calabresi, siccome diciamo nell''ndrangheta ci sono delle regole. Lea Garofalo, abbandonando il marito in carcere, porta una macchia d'onore al fratello e anche a Carlo Cosco. Dovevamo ammazzare anche Denise Cosco, secondo Carlo Cosco. Quindi Carlo Cosco, avete capito bene, si rammarica perché non è stata ammazzata anche Denise, cioè sua figlia. Insomma, lo scenario umano è questo qua. Quindi immaginate Denise che, dopo aver perso la madre adorata, dopo essere lì a denunciare suo padre di averla uccisa, dopo aver sentito che il padre si rammarica perché lei non è stata ammazzata, sente dire tutto questo da quell'uomo che credeva fosse innamorato di lei. E invece il suo fidanzatino Carmine Venturino non era altro che un altro scagnozzo di Carlo Cosco, mandato a controllare la figlia. Ma non hanno fatto i conti con l'amore, perché Carmine si innamora veramente di Denise ed è per questo che decide di parlare. Il suo racconto è raccapricciante. Ascoltate Monica Capizzano, criminologa che segue il caso. Soltanto lo scorso anno sono venuti alla luce che i suoi resti in realtà sono stati ritrovati, quindi non era stata sciolta nell'acido come a lungo si era ritenuto, ma bruciato dopo il sequestro e un mortale strangolamento. Quindi è stata prima strangolata, poi, come disse Carmine Venturino, che ha raccontato questo accanimento con una pala dove le sono state spezzate tutte le ossa, mentre nel frattempo il suo corpo veniva dato alle fiamme. Quindi una descrizione veramente macabra di questo efferato omicidio, che non è altro che un caso di lupara bianca che possiamo dire essere stato esportato a Milano, perché doveva venire eliminato il corpo fisicamente di Lea. Ricapitoliamo, la sera del 24 novembre 2009 e all'Arco della Pace a Milano, Lea sale in macchina con Carlo, di cui si fida anche perché le dice che si va a vedere un appartamento che lui ha comprato a Denise. Poi la porta in piazza Prealpi e ad attenderli ci sono Vito Cosco, Carmine Venturino, Massimo Sabatino e Rosario Curcio. E lei viene legata, torturata per confessare quello che ha rivelato ai carabinieri, poi viene strangolata, la mettono in uno scatolone e la nascondono in macchina. Poi Carlo, tranquillo, torna da Denise inscenando tutta la ricerca della madre che lui ha ucciso con le sue mani. La mattina dopo portano il corpo in un magazzino vicino a Monza, a San Fruttuoso. Il corpo viene rovesciato dallo scatolone in un fusto di metallo cosparso di benzina, bruciato per 2 giorni e 2 notti. I resti vengono buttati in un tombino dove verranno rinvenuti a distanza di 3 anni, proprio grazie alle dichiarazioni di Venturino. È a questo punto che Carlo Cosco, che si era sempre dichiarato innocente, si autoaccusa. Vi comunico che io mi assumo la responsabilità dell'omicidio di Lea Garofalo. Per me incomprensibile e inconcepibile che mia figlia Denise sia sotto protezione. Da chi? Deve essere protetta. Io do la mia vita per mia figlia in qualsiasi momento. Io adoro mia figlia, merito il suo odio, perché l'ho uccisa la madre. Io prego per ottenere un giorno il suo perdono. Grazie. È una mossa di pura strategia dell''ndrangheta, naturalmente, perché lui vuole scagionare i fratelli e i complici per liberarli e poter continuare a gestire gli affari della famiglia. E poi dice che Denise non ha nulla da temere, che lui la ama. Per fortuna nessuno gli crede, ovviamente, e la sua strategia è fin troppo evidente. E grazie alle dichiarazioni di Venturino, una volta tanto una storia italiana come questa finisce bene, le condanne vengono confermate. Ergastolo a Carlo Cosco, Vito Cosco, Rosario Curcio e Massimo Sabatino. pena ridotta a 25 anni a Carmine Venturino per le sue dichiarazioni. Assoluzione per non aver commesso il fatto a Giuseppe Cosco. Denis Cosco, anzi Denis Garofalo, perché il padre con la condanna perde la patria potestà, è oggi nascosta da un programma di protezione dei testimoni di mafia, perché giustamente non viene ancora ritenuta al sicuro, perché lì le famiglie sono molto numerose e dal suo nascondiglio interviene solamente con la voce rotta dalla commozione al funerale della madre, che si svolge a Milano in piazza Beccaria il 19 ottobre 2013. Grazie per quello che hai fatto per me, grazie per darmi una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao. Beh, ci sono delle storie terribili che qualcuno deve pur raccontare e ricordare. Qui i colpi d'ala hanno portato a una tragedia. Adesso non possiamo che fare a Denise i nostri auguri e che la accompagni la speranza di tutta la comunità civile, che lei possa avere una vita diversa, una vita di riscatto, anche se dimenticare le sarà, ahimè, impossibile. Ciascuno di noi nella sua vita può cadere, può anche dare dei colpi d'ala, e nel caso di Lea Garofano il colpo d'ala è stato il seme che ha gettato contro la 'Ndrangheta. Se avete delle storie, delle idee su quello che pensate sia il caso che io racconti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it. Ricordatevi che potete risentire in podcast le puntate che vi siete persi. Se mi cercate, sapete, io ho un social, il Falco il Gabbiano ne ha un altro, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.